In verità il primo pensiero è andato a tutte le altre vertenze, perché comunque noi siamo reduci dalla manifestazione di sabato, che è stata una manifestazione dove abbiamo detto che siamo tutti GKN e che GKN siamo tutti. Quindi questa è una sentenza che al momento dà un pochino più di ossigeno alla vertenza GKN, ma per quanto ci riguarda la concentrazione rimane sulla mobilitazione e sull'estensione della lotta. Questa sentenza semplicemente al momento fa ritirare la procedura di licenziamento, ma lascia la possibilità ovviamente all'azienda di riaprirla appena ne avrà l'occasione. L'avete già fatto anche prima della manifestazione e continuate a chiamare in causa il governo. Tanto più dopo questa sentenza. L'abbiamo detto, Melrose è un fondo finanziario, Melrose produce licenziamenti, mentre noi produciamo semiassi, quindi non c'è nessuna discussione con Melrose, c'è una discussione su Melrose, cioè la discussione è su cosa vuole fare il governo italiano per limitare le delocalizzazioni o i fondi finanziari o semplicemente la chiusura delle aziende, la distruzione di posti di lavoro. La risposta è nulla, non vuole fare nulla. Credo che questa sia la risposta più onesta che ad oggi sia necessario dare. Tant'è che io sono rimasto abbastanza basito del fatto che alcuni esponenti politici nazionali abbiano avuto il coraggio di gioire per la sentenza GKN. Questa è una sentenza che non si basa sulle leggi dello Stato, si basa sul contratto nazionale e sugli accordi interni che noi abbiamo strappato in 3 anni di scioperi in piena solitudine contro il fondo finanziario, che ha costretto la proprietà a firmare una serie di accordi dove si impegnavano a darci il preavviso delle loro mosse. Quindi, fosse stato per il governo, noi oggi, domani, dopodomani, ricevevamo quelle lettere di licenziamento. Credo che questo continuerà a essere l'atteggiamento, per cui è chiaro che, lo ripeto, la palla passa al governo, ma non nel senso che noi stiamo qua ad attendere che il governo faccia qualcosa. Noi rivendichiamo che il governo faccia qualcosa, ma una rivendicazione senza mobilitazione è nulla, quindi noi torniamo a mobilitarci il prima possibile. Voi dite insomma che la vostra mobilitazione non è solo per la vostra condizione, ma per tutte le persone e i lavoratori e le lavoratrici che si trovano nella vostra condizione. Sì, non è che siamo spinti da spirito solidaristico e basta, abbiamo anche quello ovviamente perché questa è la nostra impostazione umana e di classe che si basa sulla solidarietà, ma c'è proprio un ragionamento di fondo. GKN è il risultato di una catena di processi che hanno già chiuso altre aziende e quindi noi siamo semplicemente l'anello di una catena che se non viene spezzata comporterà altri licenziamenti e un ulteriore aggravamento del mondo del lavoro. In secondo luogo, se vogliamo cambiare i rapporti di forza nel paese per salvare GKN, è evidente che non li cambiamo solo a favore di GKN, ma di tutto il mondo del lavoro e quindi la nostra mobilitazione potenzialmente ha una debolezza di fondo, che è questa. C'è un mondo del lavoro che già stato devastato prima di noi e che rischia di vivere la visibilità attorno alla nostra vertenza quasi come un torto, come dire: ma dove eravate voi quando noi perdevamo il posto di lavoro? Perché si fa tutto questo rumore su un'azienda che comunque ha la possibilità di avere un tavolo al MISE, l'attenzione mediatica, quando magari io sono un precario che da una vita vivo di contratti di mese in mese? E noi questa obiezione la comprendiamo, la facciamo nostra. In ultima analisi ci scusiamo di questo, perché nonostante noi abbiamo sempre scioperato in solidarietà alle altre vertenze per i contratti nazionali, è vero alla fine che spesso finché non ti toccano non ti mobiliti, chiediamo semplicemente al resto del mondo del lavoro di non fare il nostro stesso errore e quindi di considerare oggi questo il momento in cui la goccia deve far traboccare il vaso, in cui tutti insieme possiamo salvare GKN, ma come parte più generale della lotta per cambiare il mondo del lavoro. Per cui il nostro ragionamento di sviluppo della mobilitazione, non meramente così genericamente solidaristico, per quanto lo ripeto, nella solidarietà anche generica non c'è nulla di male, anzi è la base, secondo noi, dei rapporti dentro la nostra classe.